Se rimango fermo, esito, passano le ore. Pratiche di serenità. Porta a capire logiche immobili. Pratiche di serenità. Disegno, insegno, non compare niente, mai. Disegno, insegno, non compare niente, mai. Disegno, insegno, non compare niente, mai. Disegno, insegno.